Euroreportage. Europa avanti tutta. Il nuovo Parlamento al lavoro dopo il voto. Di Sergio Nava. Colleghe e colleghi, vi comunico il risultato dello scrutinio. Votanti 723, schede bianche o nulle 111, voti espressi 612, maggioranza assoluta 307. Hanno ottenuto voti onorevole Iglesias Turion, 51 voti, onorevole Karim, 101 voti, onorevole Lunacek, 51 voti, onorevole Schulz, 409 voti. L'onorevole Schulz ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi ed è dunque eletto Presidente del Parlamento europeo. Buongiorno da Strasburgo. Primo pomeriggio di martedì 1 luglio, inizio dei lavori del Parlamento europeo. Si è votato questa mattina per Martin Schulz, rieletto presidente dell'Europarlamento al primo voto. Ora di pranzo, i deputati stanno tornando lentamente al lavoro per questa prima giornata e noi andiamo a raccontarvi questo inizio di sessione parlamentare, nuova legislatura che durerà 5 anni. Vi racconteremo attraverso le voci dei nuovi deputati quale sarà il Parlamento europeo 2014-2019. Facciamo con le voci dei due eurodeputati italiani eletti vicepresidenti dell'Eurocamera, Antonio Tajani di Forza Italia e David Sassoli del PD. A loro il compito di tracciare le rispettive linee programmatiche per la legislatura 2014-2019. Sentiamo Tajani, subito dopo Sassoli. Sono da continuare battaglie per dare all'Europa una vera politica industriale, perché non si esce dalla crisi se accanto al fiscal compact non c'è un vero industrial compact, quindi vale a dire una strategia come abbiamo voluto quando era la Commissione europea, come ha accettato anche il Consiglio che ha approvato le nostre proposte, quindi bisogna lavorare per implementare questa decisione, mettere al centro l'economia reale, lavorare perché vengano ben investiti i 150 miliardi di euro che abbiamo messo a disposizione del bilancio comunitario per la crescita e per l'industria, e quindi l'impegno sarà soprattutto per cercare di dare buone norme all'Europa perché si possa uscire definitivamente dalla crisi. Quindi se capisco bene, insomma, cercherà dal Parlamento di proseguire il piano di rinascita industriale che avevate lanciato a febbraio. Da febbraio a oggi cosa è cambiato? Beh, a marzo il Consiglio europeo ha approvato le proposte della Commissione europea, la strategia della Commissione europea, quindi si sta andando avanti, non si parla più di deindustrializzazione dell'Europa, non si parla più di deserto industriale, ma si parla sempre più di nuova politica industriale, di economia reale, di piccole e medie imprese, di crescita. Ora bisogna continuare a lavorare perché il patto di stabilità sia interpretato con flessibilità. Dobbiamo rendere più trasparente il luogo della democrazia europea per renderlo più forte, e quindi la trasparenza, l'accessibilità e anche la comunicazione, perché qui in realtà passa un processo legislativo che per il 70% poi saranno le leggi nazionali. Questo non può essere in un cono d'ombra, dobbiamo coinvolgere l'opinione pubblica, per cui la comunicazione non tanto come propaganda, ma la comunicazione come rapporto fra istituzioni e cittadini. Accessibilità, trasparenza, perché nulla resti opaco, e comunicazione. I dossier da chiudere però in questa legislatura? Ce ne sono alcuni di grande rilevanza, pensiamo a tutta la partita che riguarda i trasporti, le ferrovie, i porti, quindi le infrastrutture. Far capire che stiamo parlando di reti che poi incideranno molto nella vita delle persone. L'Europa utile non è uno slogan, è la necessità di far capire che tutto quello che avviene nel Parlamento europeo poi ha un riflesso nella vita quotidiana delle persone. La campanella richiama all'ordine i deputati europei in vista del voto in plenaria. Occorre rientrare. Per noi tempo di cambio di scena. Dai partiti della cosiddetta grande coalizione parlamentare, popolari e socialisti, di cui Tajani e Sassoli sono esponenti, ai partiti dell'opposizione. Sinistra ed Europa della libertà e della democrazia diretta. Cominciamo con Eleonora Forenza, capo delegazione italiana dell'Altra Europa con Tsipras. Penso che occorra dare una risposta alla condizione di un'intera generazione, la generazione precaria, la generazione che non conosce reali tutele né sul lavoro né sul welfare. Quindi il primo punto secondo me è quello di costruire un piano europeo per l'occupazione e di lavorare affinché tra i diritti di cittadinanza europea ci sia anche un reddito minimo garantito. L'Europa però non ha molti poteri in materia di lavoro, di occupazione. Come riuscire a rendere più incisiva l'Europa in un settore dove alla fine le politiche sono nazionali? Sì, noi pensiamo occorra agire su entrambi i livelli. In primo luogo a noi piacerebbe potesse diventare competenza europea la costruzione di quello che alcuni economisti chiamano il labor standard, cioè diritti minimi del lavoro a livello europeo. Tra questi ad esempio il salario minimo orario di cui si sta tanto discutendo in Germania in questi mesi. A questo si aggiunge però una cosa, che in Italia il lavoro non solo ha subito un tasso di precarizzazione negli ultimi anni che non ha elementi di paragone nel resto d'Europa, parliamo del 160% di precarizzazione del lavoro dagli anni 90 ad oggi, e il piano di Renzi, il Jobs Act, non farà che aggravare questa situazione. E ora Ignazio Corrao del Movimento 5 Stelle, alleato a Strasburgo con lo UKIP di Nigel Farage. Vogliamo cercare di mettere mano su quei trattati come il Fiscal Compact che rendono impossibile di fatto delle possibilità di sviluppo nel nostro paese. Poi ci sono tanti trattati che sono per ora in discussione. Oggi ho menzionato per esempio il TTIP e sono tutti trattati che comunque vanno in una direzione di globalizzazione che abbiamo capito che non è più sostenibile. Cioè, infatti, quello che volevo dire, appunto, quando la globalizzazione comunque supera i governi, vuol dire che ormai i governi non sono più in grado di controllarla, la globalizzazione a controllare appunto i governi. Io, come ho detto parecchie volte, a me piacerebbe trovare appunto delle regole di uniformità dei diritti in tutti i 28 stati dell'Unione Europea, perché si pensa tanto a liberalizzare i mercati, ad unificare i mercati, però si pensa quasi per niente ad unificare i diritti. Questo è, diciamo, una mia battaglia personale per quello che è il lavoro di commissione. Le sirene dei Verdi pare stiano attraendo parecchi eurodeputati del Movimento 5 Stelle, si parla di colloqui tra alcuni vostri eurodeputati e i Verdi. Resterete tra i colloqui li abbiamo fatti semplicemente per motivi tecnici, cioè abbiamo parlato di OGM, di sta roba qui, non esiste, è tutto gossip. Noi siamo entrati in questo gruppo. Resterete 5 anni con Nigel Farage? Probabilmente sì. Quale messaggio porta l'Europa? Juncker non lo voglio vedere, Rompuy neanche. Ora vediamo se abbiamo spazio per vedere Schulz, ma io mi interessa di vedere Schulz. Comunque è un bel contesto questo, è un contesto straordinario, che regarda il la press, il ha il terrorismo e la violence del linguaggio, tu comprends? La violence del linguaggio, je n'ai pas plus violence avec mon linguaggio. Je suis fatigué. Comment ça s'appelle? Quand tu es calme, très calme. Très calme, calme. Calme, très calme. Ovviamente non poteva mancare nel giorno inaugurale l'arrivo, poco a sorpresa, del leader 5 Stelle Beppe Grillo, che alterna lungo i corridoi che portano al corpo centrale dell'Europarlamento l'italiano e il francese, parlando della violenza del linguaggio della stampa. Anche in questo, poche novità da parte del movimentista Grillo. We receive tomorrow Matteo Renzi as the incoming president of the European Union, of the European Council. My feeling is that Italy is back in the center of European action and is playing the role the country has to play. Italy is one of the four member states of the European Union belonging to the G7. And a strong Italy is in the best interest of the European Union. I think this is well known that I was always on the line that the preemptive arm of the stability pact must be used for more flexibility. L'ultima parola la lasciamo così al rieletto presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, che, parlando a Radio 24, accoglie con favore la nuova presidenza semestrale dell'Unione Europea a guida italiana. Ho l'impressione che l'Italia sia di nuovo al centro dell'azione europea. L'Italia sta giocando il ruolo che deve giocare. È uno dei 4 paesi europei che appartengono al G7. Un'Italia forte è nell'interesse dell'Unione Europea, dice Schulz a Radio 24. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.